è rivolta alla società, perché crediamo che la società debba essere consapevole del dramma che stanno vivendo le nostre carceri, coloro che vivono e lavorano nelle nostre carceri. Siamo in una condizione di sovraffollamento non più sostenibile, siamo all'82esimo suicidio da inizio dell'anno. È un'emergenza umanitaria che ci riguarda tutti, deve riguardare la società, perché in queste condizioni dal carcere usciranno certamente persone peggiori di quelle che erano entrate. E quindi da questo punto di vista credo che tutti siamo e dobbiamo essere coinvolti. Questa manifestazione serve a questo, a parlare alla città, a coinvolgere la città rispetto a un problema che vediamo sempre lontano da noi, ma è molto più vicino di quello che pensiamo. Quanto è fondamentale in questo la partecipazione cittadina? La partecipazione cittadina è fondamentale perché serve a far sentire a chi ci governa che questo è un problema che deve essere preso in considerazione. Più larga è la base di sensibilità su questo tema, più si può far pressione al governo e al Parlamento per adottare misure che servano a risolvere il problema di questo dramma carcerario. Quindi è proprio una forma di pressione sociale sul governo per adottare tutte le misure urgenti e necessarie e straordinarie, perché siamo davanti davvero a una situazione straordinaria e emergenziale che merita misure emergenziali e straordinarie. Se posso chiedere, ci vuole parlare di alcune proposte? Certamente la prima proposta in questo momento è quella che già la nostra Costituzione prevede come possibile, cioè un provvedimento di amnistia e di indulto. Lo chiediamo a gran voce da tempo, sono misure straordinarie che sono previste appunto nella nostra Costituzione e che fino al 1991 in questo paese venivano adottate con una certa frequenza. È cambiata la legge, la maggioranza parlamentare adesso deve essere più alta, però stiamo vivendo un momento eccezionale, straordinario, di emergenza, che merita anche di essere risolto nell'immediato con queste misure che servono a sfoltire, a alleggerire il carico su carcere. Dopodiché questo non basta perché bisogna intervenire a livello strutturale con riforme che riguardano il codice penale e reati. Certamente va messa in atto una seria depenalizzazione, perché più reati e più pene portano a più carcere, quindi il carcere deve essere limitato a casi eccezionali, a una vera extrema ratio, perché è statisticamente dimostrato che le persone che eseguono la propria pena fuori dal carcere hanno minor possibilità di recidiva. Quindi il carcere, in realtà la pena carceraria, non abbassa il pericolo di reiterazione reata, ma anzi statisticamente lo alza. Una serie di misure anche sulle pene alternative alla detenzione, che devono essere incentivate. Da questo punto di vista la pubblica amministrazione, il comune, la regione devono apportare una serie di, e anche a livello nazionale, di investimenti economici per creare delle strutture per chi non ha casa, per chi non ha un collegamento col territorio, per poter eseguire la pena fuori dal carcere. Continuiamo la conversazione con Antonio Iagnello, garante dei diritti dei detenuti per il comune di Bologna, a cui chiedo qual è l'entità di questa emergenza e quali violazioni vengono ignorate in questa situazione. Allora diciamo così, il tema è che ormai da alcuni anni si sta instaurando e si è instaurata e si sta consolidando una tendenza all'aumento di numeri che nei fatti va deteriorando quelle che sono le condizioni detentive e di pari passo anche quelle che sono le condizioni lavorative. Quindi se non in un modo o nell'altro non dovesse intervenire di qui a un prossimo futuro un intervento tale da poter decongestionare i numeri, si andrebbe molto verosimilmente a toccare quella soglia che nel 2013 ha comportato la condanna dell'Italia per trattamenti inumani degradanti. Qui su Bologna al momento non siamo ancora in quella condizione lì, anche se storicamente e strutturalmente non viene rispettata la capienza regolamentare, che si attesta a 500 persone, e ormai stabilmente nel corso di questo 2024 abbiamo ballato fra le 810, 820 e 850. Detto ciò, l'allarme e la preoccupazione è appunto con riferimento a quello che è l'aumento costante dei numeri. Se non si dovesse porre un argine a questo aumento delle presenze, sicuramente si andrebbe in prossimità di vere e proprie condizioni detentive inumane e degradanti.